Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Il tema soprattutto oggi, senza nulla togliere ai cali di borsa non drammatici come quelli di due settimane fa, o meglio di lunedì scorso, inteso come una settimana fa, però significativi, nel senso che Parigi perde adesso quasi il 3%, meno 2,90, Francoforte il 2,80, Milano il 2,45%, Londra cede il 3,5%, l'America adesso sul Dow Jones oltre il 2%. Che cosa è successo? Sostanzialmente sono usciti vari dati sull'andamento dell'industria manifatturiera, soprattutto quello molto atteso in Cina, che segnalano un rallentamento. Per quello che riguarda, adesso ne parleremo, è sceso ad agosto l'indice PMI, che segnala anche, diciamo, l'andamento del ciclo economico interno, è sceso sotto i 50 punti. 50 punti è sempre lo spartiacque tra crescita economica e stagnazione barra recessione, il livello più basso dall'agosto del 2012. Parleremo fra poco di Cina, parleremo oggi anche di petrolio, dopo che ieri è stato sulle montagne russe, meno 3, più 5, oggi di nuovo meno 5% a $46.50 al barile. L'Iran ha fatto sapere che sarà in grado di aumentare la sua produzione di petrolio di 500.000 barili al giorno una volta che le sanzioni saranno interamente rimosse. Parleremo appunto di petrolio, di borsa, ma dicevo, la notizia più forte di oggi riguarda noi e riguarda l'Italia. Perché? Perché abbiamo due notizie positive. Adesso non vorrei iniziare a rispondere tutta la puntata alle accuse, ecco che sei renziano, filo governativo. Abbiamo sempre messo in evidenza quando i dati sull'occupazione e sulla disoccupazione erano deludenti, come sono stati per tutti i primi mesi del 2015, con lo stesso atteggiamento, si può chiamare laico, mettiamo in evidenza quando i dati sono assolutamente positivi, e vale sia per il tasso di disoccupazione nel mese di luglio che per la stima sul PIL italiano nel secondo trimestre. Andando con ordine, la disoccupazione, cioè il numero di quelli che non lavorano tra quelli che cercano un lavoro, è scesa al 12%, è un livello ancora alto, lo sappiamo tutti, prima della crisi si viaggiava tra il 7 e l'8%, però è calata di quasi un punto percentuale rispetto a un anno prima. È un calo particolarmente significativo, anche perché è il livello più basso dal luglio del 2013, ci porta la disoccupazione italiana al livello più basso dal luglio del 2013. È calata appunto di 0,9% rispetto a un anno prima, dello 0,5% rispetto a giugno. Tra l'altro scende anche la disoccupazione giovanile dei tra i 15 e i 24 anni, pari al 40,5%, anche qui molto alto il livello, però di 2,6 punti percentuali in meno rispetto all'anno prima, quando era il 43%. Il dato viene confermato anche da un altro elemento speculare, lo spieghiamo ogni volta: la disoccupazione fotografa chi cerca un lavoro, chi non ha un lavoro tra chi lo sta cercando. L'occupazione invece dice semplicemente quanti lavorano tra tutti quelli che potrebbero avere la possibilità di lavorare, ma non include quelli che non vogliono lavorare o per motivi familiari o perché sono così sconfortati che non lo stanno nemmeno cercando il lavoro. Allora, anche gli occupati sono aumentati dell'1,1% rispetto a un anno prima, sono 235.000 in più. I due dati non sono speculari, nel senso che tu puoi avere anche, come spieghiamo ogni tanto, una occupazione che non aumenta e una disoccupazione che diminuisce, o viceversa, puoi avere anche una disoccupazione che aumenta e un'occupazione che va in senso contrario. Perché? Perché ci possono essere più persone che cercano un lavoro e quindi entrano nella categoria di disoccupati, non variano il tasso di occupazione, ma vanno a variare il tasso di disoccupazione se non trovano un lavoro. Comunque anche l'occupazione è aumentata, più 235.000 rispetto a luglio del 2014, crescono però gli inattivi. Questa è l'unica brutta notizia sul mercato del lavoro, 99.000 persone in più. Il tasso di occupazione, quindi tutti quelli che lavorano, fatto 100 il numero di chi potrebbe potenzialmente lavorare, è così salito al 56,3%. La cosa importante è che è tornato ai livelli del 2012. E questa è la prima delle due buone notizie. La seconda buona notizia riguarda il nostro PIL. Allora, il PIL italiano rivisto al rialzo nel secondo trimestre fa più 0,3% rispetto al trimestre precedente, più 0,7% rispetto a un anno prima. È l'aumento del PIL più forte da 4 anni a questa parte, dal secondo trimestre del 2011. E va detto che a questo punto la crescita acquisita per il PIL, cioè quello che è la crescita che ha già fatto la nostra economia nei primi 6 mesi, anche se gli ultimi 6 mesi facesse zero, il dato finale sarebbe già di un più 0,6%. Perché lo dico? Perché il governo si attendeva uno 0,6-0,8, beh, con una crescita acquisita già dello 0,6 probabilmente c'è la possibilità, e noi ce lo auguriamo tutti, che il PIL italiano quest'anno cresca anche di più, perché 0,6 l'hai già fatto, lo faresti comunque. Certo, uno può dire non lo faresti se facessi meno 0,2 o meno 0,3 negli ultimi trimestri, ma questo tenderei ad escluderlo. Ma anche se facessimo 0 nel terzo e quarto trimestre avremmo comunque una crescita dello 0,6. Ripeto, siccome è difficile fare 0, magari faremo 0,2, 0,3, questo porta a dire che probabilmente l'obiettivo potrebbe essere anche più alto di quanto stimato dal governo. Faccio notare che era da con il primo trimestre del 2015 è stato il primo trimestre dopo 30 trimestri consecutivi di calo continuo del PIL, e da questo punto di vista abbiamo il secondo trimestre consecutivo di crescita del PIL, tant'è che addirittura il mitico ministro di finanza tedesco Wolfgang Schäuble, il Falco, dice: in Italia ci sono segnali di fondamentali miglioramenti. Dopo un incontro bilaterale Germania-Spagna a Berlino, e poi chiaramente anche il commento del Presidente del Consiglio, il commento molto più prudente. Ho detto 13 trimestri, scusatemi, consecutivi di calo del PIL, e poi col primo trimestre del 2015 è arrivato la prima crescita. Dicevo, commento più cauto da parte del presidente di Confindustria Squinzi, che dice: spero che i dati diano un segnale di una ripresa vera, che sia, ci sia la conferma anche nei mesi successivi. Attenzione, perché, ha ricordato Squinzi, questa crescita economica si realizza ed è dovuta principalmente ai fenomeni esterni che avvantaggiano l'Italia come altri paesi dell'area euro, e quindi tassi a zero, quantitative easing della Banca Centrale Europea, petrolio sotto i 50 dollari ed euro a quota oggi 1,12. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Che praticamente non ce ne sono, nel senso che abbiamo approfondito, faranno parte dei nostri approfondimenti tutti i temi che trattavo. Due però le vorrei dare, anzi tre, mettiamola così. Alcuni mi chiedono già i valori di borsa, vi dico semplicemente che il peggior titolo è Monte dei Paschi, meno 4,40, Jux meno 4,20, Pop Milano meno 3,50 come CNH Industrial, Unicredit meno 3,40 come Moncler, il 3,30 lo perde Azimut, il 3,2 Fiat e il Banco Popolare, il 3% è il calo di Unipolsai e di Ferragamo, ma anche di Luxottica ed Enel. Tre notizie. Partiamo da un sogno, a mio avviso, per alcuni ascoltatori. Qui c'è un giornalista economico che ha fatto una cosa che immagino sia il sogno per alcuni ascoltatori che non mi sopportano. Cioè ha fatto pubblica ammenda davanti alle telecamere, si è messo anche a piangere. Allora, cosa sta succedendo in Cina? C'è una piccola premessa. In Cina, non solo dopo i crolli continui della borsa, almeno 30% da giugno ad agosto, sono stati arrestati alcune personaggi, 197 persone in realtà sono state punite dalle autorità, 197 persone che il governo ritiene responsabili del crollo delle quotazioni azionarie delle principali società per avere disseminato panico e paura tra gli investitori. C'è stato anche un famoso manager di un fondo di investimento inseguito fisicamente per le strade di Shanghai dai risparmiatori furiosi e furibondi. Ma adesso è stata anche la volta di un giornalista economico, ecco perché dico il sogno di alcuni ascoltatori, immagino, il quale è stato costretto a andare in televisione come molti altri, confessare il suo sbaglio davanti alle telecamere della TV di Stato, seguendo una routine abituale negli ultimi 3 anni in Cina. Lui si chiama Wang Xiaolu, è uno stimato analista della rivista Caixin, specializzata in inchieste scomode sull'economia cinese, eppure si è dovuto scusare per aver provocato panico e paura tra gli investitori. Ha confermato le accuse che gli sono state rivolte, cioè di aver pubblicato un articolo irresponsabile che avrebbe contribuito al crollo delle borse di Shanghai e Shenzhen in luglio. Ecco, con questo tono, che chiaramente è dal 2 di novembre, lui si è scusato di fronte a decine di milioni di persone. Ora, una cosa la possiamo dire, ma non per difendere i giornalisti economici, la battuta di un vecchio, secondo me era di Giulio Sapelli, che diceva: i giornalisti economici si distinguono tra economici abbastanza cari e cari. Però il problema non è questo. Il problema è che, insomma, va bene tutto, la stampa sbaglia, gli analisti sbagliano, però che la democrazia sia un concetto molto molto distante dalla Cina lo dimostra anche il fatto che adesso stanno facendo la caccia all'untore, l'untore su chi ha creato panico e paura tra gli investitori. Ragazzi, cari cinesi, ci sono fior fior di analisi delle banche d'affari, ci sono i flussi di capitale che dalla Cina sono usciti, sono tornati nel mondo occidentale. Bastasse, io lo so che è il sogno anche di molti politici italiani, anche di ex presidenti del Consiglio, basta con questi giornalisti, com'era, comunisti, pessimisti, che portano solo brutte notizie, che deprimono il paese. Ma è troppa grazia, Sant'Antonio, bastassero i giornalisti a far ripartire l'economia, li cambiamo tutti e il PIL ricresce. È una tentazione da sempre forte della politica di dire la borsa è andata male per colpa di chi parla di cose negative. Parliamo di cose positive e tutto va bene. Si chiama il re nudo o si chiama Madama la Marchesa. E quindi anche i cinesi, per carità, se uno ha fatto analisi e ci ha guadagnato, ha fatto speculazione sulle analisi, comportamenti scorretti, va punito. Però dar la colpa a 197 persone responsabili del crollo delle quotazioni per aver diffuso panico e paura tra gli investitori, voglio dire, allo stesso modo uno potrebbe accusare altri di aver diffuso un eccesso di euforia e di ottimismo, e dovrebbero chiedere anche loro ammenda. Non finisce più, perché altrettanto grave è chi invita a investire in borsa e diffonde un eccesso di ottimismo e di facilità agli acquisti. Ma perché i regimi e i politici con tentazioni autoritarie non chiedono mai di punire gli eccessi di ottimismo, gli eccessi di chi dice comprate le azioni, il mercato va su? Perché non hanno punito tutti quelli che invitavano a investire in borsa quando la borsa cinese già era cresciuta del 100% in un anno? Misteri. Buono il dato che arriva dai disoccupati tedeschi, cambiamo tema, in calo in agosto sono scesi al 6,4%, è il livello più basso da quando la Germania si è riunificata, a dimostrazione che l'unico paese, diciamo, che direttamente o indirettamente ha avuto un giovamento dalla gestione tedesca della crisi in Europa è stata proprio la Germania. Eccolo qua, ecco, cani del padrone, servo del potere. Va bene, sapevo che se il dato è positivo, ma anche qui, perché non mi date il premio Pulitzer allora quando raccontiamo i dati negativi? Cioè i dati sono dati, se sono positivi meglio per tutti, se sono negativi peggio per tutti. Non fate come i cinesi anche voi, cari ascoltatori, eccoli qua. Va bene, allora andiamo invece a altre due notizie rapidissime. L'Expo, la società Expo ha comunicato che sono stati diffusi, buonanotte, che sono stati emessi finora quasi 14 milioni di biglietti, 13,7 milioni. Solo ad agosto si sono registrati 3 milioni e 300 mila accessi e sono 12 milioni,2 dall'apertura. Lo dico anche ad alcuni ascoltatori che chiedevano: ma come si contano i visitatori? Si contano all'ingresso dell'Expo, non all'ingresso dei padiglioni. Sentivo alcuni tassisti l'altro ieri dire: no, ma qua i numeri sono taroccati perché poi uno viene contato quando entra nei padiglioni. Ma figuriamoci, viene contato quando entra le barriere principali. Adesso uno può essere contro l'Expo, ma non può avercela con l'Expo. Poi non so perché alcuni tassisti ce l'abbiano con l'Expo, onestamente. Oh, Google, a me piace sta new economy che però ho old habits, vecchi vizi, vecchie abitudini, perché Google sarà nuova, sarà il mondo del futuro, ma il vizio di non pagare le tasse ce l'ha un po'. In 13 anni di attività in Italia, Google ha pagato al fisco italiano solo 12 milioni di euro di tasse, praticamente meno di un milione di euro di tasse all'anno, Google. Tra l'altro l'AGCOM stima invece 490 milioni di euro di fatturato, solo l'ultimo fatturato. Come fai a pagare meno di un milione all'anno se fatturi oltre 400 milioni? Beh, insomma, secondo il mensile Altra Economia, tra 2002 e 2014 la filiale italiana del colosso web ha corrisposto all'erario 12.080 euro e realizzato in Italia utili ancora più bassi, 10.600.000. Sappiamo come funziona la sede legale, quindi dove pagano le tasse Google, come tantissimi altri colossi, non è in Italia, fattura in Italia ma paga le tasse dove più le conviene, che si chiami Dublino o altri paesi, poco cambia. Vedo che qualcuno si augura che anche per me ci sia una punizione tipo il giornalista cinese. Quando abbiamo sbagliato l'abbiamo detto anche in diretta. Altri dicono: guardi che la nostra rabbia è perché i dati non sono in linea con quello che noi vediamo nel nostro, nella vita di tutti i giorni. Ha ragione, perché sono dati aggregati, sono dati ancora piccoli, lo 0,3% di PIL non te ne accorgi, ma il compito di chi vi parla è analizzare i dati nel complesso, non andare a analizzare ogni singola regione o provincia di questo paese. Sappiamo benissimo che la situazione è a macchia di leopardo, non solo a livello geografico ma anche all'interno della stessa regione o dello stesso distretto, tra chi esporta e tra chi non esporta. Però questo non vuol dire non raccontare i dati, cioè non capisco cosa dovrei fare, dire che non è vero che l'Istat ha detto che il PIL è aumentato più del previsto, più della prima stima, che non è vero che i disoccupati sono calati, che non è vero che gli occupati sono aumentati. Faremo come i cinesi. ...349-238-6666 per i vostri sms. La pagina poi di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo dai 100 secondi di Radio 24, sulle 24 ore, dedicati chiaramente a questi due dati, occupazione, disoccupazione e PIL. La firma oggi del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Arrivano due dati positivi oggi per l'economia italiana. Da un lato l'Istat ha corretto al rialzo la crescita del PIL nel secondo trimestre del 2015, portandola su base annua da 0,5 a 0,7% in più. E si tratta dell'aumento tendenziale più alto da 4 anni a questa parte. Contemporaneamente ci sono i dati sempre dell'Istat sull'andamento dell'occupazione, sia per il mese di luglio sia per il secondo trimestre 2015. Qui si segnala un buon miglioramento del mercato del lavoro. Tra i tanti numeri colpisce soprattutto l'aumento degli occupati. A luglio ce ne sono stati 44.000 in più e su base annua la crescita è stata di 235.000 unità. Il tasso di disoccupazione si ferma al 12%, ma tra i giovani è al 40,5%, e inoltre, beh, questo va detto, non è un elemento positivo, aumentano i soggetti inattivi, cioè le persone che sono così scoraggiate da non cercare neppure un lavoro, un'occupazione. Come sempre, i dati macroeconomici vanno letti con cautela e vedremo se questa tendenza positiva ha basi solide oppure se si tratta di un miglioramento temporaneo. Volendo azzardare una sintesi, possiamo dire che i dati dell'Istat ci dicono che la combinazione tra il Jobs Act e gli sconti contributivi concessi alle imprese che assumono con contratto stabile sta producendo buoni effetti, in un quadro però di ripresa che resta debole, che resta lenta. Insomma, arrivano segnali incoraggianti, ma forse ancora presto per dire che l'economia sta ripartendo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Vendoli cagnolini da lecco dei poteri forti, schiavo, vabbè, questo è il tono più basso, c'è anche qualcosa di più offensivo sessualmente parlando sul PIL, sull'unico PIL che cresce, vabbè, comunque vedo che il paese reale, come dicono i politici quando fanno un po' di demagogia, li ha presi bene i dati sul PIL e sulla disoccupazione. Non vi dico la petizione per mandarmi in Cina a fare Arachiri in televisione. Comunque, stiamo calmi, anche perché, ripeto, i dati ci sono e sarebbe veramente ideologico non salutarli in maniera positiva, però sono ancora dati modesti. Adesso, prima di ricevere l'ondata di insulti che di solito, vi faccio ascoltare il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che ha commentato i dati. Prima li ha commentati su Twitter, scrivendo su Twitter, poi anche un commento verbale, e mentre il ministro Padoan ha detto la direzione giusta, ci siamo, la finanza è sotto controllo, la guardia di finanza, forse. Finanza è sotto controllo, respiro, c'è un respiro per la ripresa, ora bisogna accelerare. Il ministro Poletti, che si è ripreso dalla gaffe del ministero sui dati sugli nuovi occupati creati, ha detto che viene confermato l'avvio della ripresa, ora bisogna accelerare. Sentiamo Renzi. Più 44.000 occupati, meno 143.000 disoccupati. E per chi è abituato a pensare alle cifre, alle statistiche, ai numeri, questi sono soltanto dei numerini, ma in realtà è molto di più. Sono donne del sud che finalmente trovano una occupazione, sono cinquantenni che tornano ad avere una chance grazie al Jobs Act. È l'idea che il paese si rimetta in moto. Io credo che ciascuno di noi possa avere le proprie idee politiche, ma quello che è fondamentale oggi è che tutti insieme diamo una mano perché l'Italia torni a crescere, cosa che negli ultimi anni purtroppo non ha fatto. Negli ultimi anni è come se l'Italia avesse bucato la ruota o fosse caduta in una discesa, e il gruppo dei paesi europei andava molto, molto, molto più forte. E gli ultimi dati che arrivano anche sulla crescita dimostrano una cosa molto semplice: non siamo ancora la maglia rosa, non siamo quelli che crescono più di tutti, ma siamo tornati nel gruppo, e siamo tornati nel gruppo grazie al percorso di riforme che abbiamo fatto e che stiamo facendo. Oh, Diversa l'analisi del presidente Confindustria Squinzi, che dice invece: spero che i dati siano il segnale di un avvio di una ripresa vera e mi auguro che sia confermata nei mesi successivi. Dico anche che a chi scrive: cosa farete se i prossimi dati sono in contrazione? Faremo quello che abbiamo sempre fatto, diremo che il PIL è calato più delle attese e che l'occupazione è calata più delle attese, che la disoccupazione è tornata a crescere, cioè daremo le notizie e i numeri che ci vengono forniti dall'Istat. Cosa dobbiamo fare? Comunque, il presidente Confindustria Squinzi. Sono dati sicuramente positivi, che vanno nella direzione giusta. L'unica speranza è che vengano poi confermati nei mesi successivi, perché qui stiamo poi in situazione di doccia scozzese. Un mese abbiamo un dato positivo, il mese dopo abbiamo un dato negativo. Quindi io mi auguro che sia effettivamente l'avvio di una ripresa vera. Il divario nord-sud è uno dei problemi, tanto è vero che Confindustria ne è molto cosciente. Abbiamo deciso di tenere il nostro prossimo consiglio generale a Taranto per dibattere sicuramente del problema Ilva, ma soprattutto di dibattere il divario nord-sud, perché è una situazione sulla quale è necessario una riflessione e un intervento forte. Ma per adesso siamo sì paese dello zero virgola. Andiamo. Forse la signora Camusso farebbe bene a fare qualche riflessione, perché andiamo, siamo andiamo, il paese andiamo. Dello zero One day on the red hills of Troy, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Allora, l'ultimo passaggio della dichiarazione di Squinzi si riferiva al segretario della CGIL, chiaramente Susanna Camusso, che ha detto: Renzi e Squinzi, tornate con i piedi per terra, se smettessero la propaganda il paese potrebbe cogliere delle opportunità. Allora, se io commento la Camusso divento schiavo dei padroni confindustriali, ma la commento lo stesso, per carità. Ha poi ha detto anche: bene il calo dei disoccupati, ma attenti alla propaganda, bisogna evitare di produrre effimere illusioni, e mi sembra che in questo siano molto vicini anche i ragionamenti col presidente Confindustria. Nessuna finta illusione. Però anche la CGIL, invece che sembrare quasi delusa per i dati positivi, ci può dire che tipo di riforma può fare, vuole fare per rendere più competitivo questo paese, per inserire il merito nella pubblica amministrazione, per rendere più flessibile anche la parte contrattuale di carattere aziendale? Cioè, questo vorremmo sapere, non solo se Renzi e Squinzi sono troppo entusiasti, troppo ottimisti. Allora, professore nonché onorevole Carlo Della Ringa, economista, editorialista Sole 24 Ore, attualmente ex sottosegretario al lavoro e attualmente deputato del PD, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Puntata difficile oggi, glielo dico già. E grazie anche all'economista ed editorialista Sole 24 Ore, Alberto Quadrio Curzio, presidente dell'Accademia Nazionale dell'INCEI. Buonasera, professore. Buonasera. Allora, vi chiedo ancora 3 minuti di pazienza, ho il metro, la pubblicità, poi vorrei un primo commento Della Ringa su questi dati, senza, così come abbiamo sempre ricordato Della Ringa quando erano deludenti nei mesi scorsi, i 47, i 55 nuovi posti di lavoro, senza esagerare adesso nell'enfasi, però insomma i dati sia sulla disoccupazione che sull'occupazione sono positivi. E poi invece lo scenario di contesto per quello che riguarda l'Italia, anche con il professor Quadrio Curzio, 349-238-6666. Per gli sms la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. Allora, onorevole Della Ringa, nonché ex sottosegretario del lavoro e da sempre studioso del mercato del lavoro, dati positivi ma non bastano, mettiamola così, anche se non mi piace il yes but, come dicono in inglese, il sì ma, però dati positivi in maniera indiscutibile anche sul fronte dei giovani e degli occupati, professore. Sì, sono d'accordo col presidente Squinzi, cautela, visto che i primi mesi di quest'anno a mesi positivi subentravano poi mesi col segno meno. Quindi è giusto anche accentuare gli aspetti di fiducia nel futuro, di uscita dalla crisi, ma è facile anche accendere illusioni, quindi sono dati che vanno confermati, però non c'è dubbio che sono positivi, aumenta l'occupazione e diminuisce la disoccupazione. Sono positivi per un aspetto che ormai dobbiamo considerare, cioè per la relazione che si deve instaurare fra crescita e occupazione. Cioè è vero, come sempre è stato detto, che per avere più occupazione bisogna che ci sia più crescita, senza crescita non c'è occupazione. Però non c'è dubbio che un mercato del lavoro dinamico, più dinamico di una volta, e questo può essere anche un effetto del Jobs Act, delle misure di decontribuzione, possono favorire in qualche modo la crescita. Abbiamo sempre detto che la domanda interna per beni di consumo è il punto debole della nostra macroeconomia. Ora un aumento dell'occupazione di 40-45 mila occupati significa redditi del lavoro in più, redditi che entrano nei figli, più fiducia da parte delle famiglie, più capacità di spesa. Ecco, io direi che i segnali positivi dal mercato del lavoro noi dobbiamo aspettarceli anche sulla ripresa, anche perché se non ci fossero, ecco questo è il punto che vorrei sottolineare, allora non va bene. Più occupazione per fare che cosa? Non c'è più produzione, più vendite, rischiamo di avere più occupazione all'interno delle imprese di gente che non sa poi come essere utilizzata. Quindi questo circuito virtuoso può avviarsi. Ci sono segnali positivi, ma certamente siamo soli all'inizio. Sì, lei fa bene a ricordare quanto ci scrivono alcuni ascoltatori. Cioè, attenzione, quante sono le ore lavorate? Adesso non possiamo disaggregare tutto il dato, però quello che le diceva, cioè l'occupazione deve crescere, la disoccupazione calare a fronte di un'economia che cresce, perché altrimenti vuol dire che ti stai spartendo, diciamo così, la torta delle ore lavorate in più soggetti, ma non cambia, nel senso che più persone lavorano e lavorano, però guadagnano anche meno. Se invece tu vedi un certo parallelismo, pur con una differenza un po' differita, come temporalmente parlando, tra crescita del PIL e crescita dell'occupazione, puoi essere un po' più sicuro che questi nuovi occupati o persone che tornano a lavorare non vadano a ridurre il monte ore degli altri, se ho ben capito il suo ragionamento, professore. Sì, è un po' questo, però d'altra parte ci sono anche segnali della cassa integrazione che si sta riducendo, quindi ci sono segnali che gli orari di lavoro si stanno riprendendo e oltre alla ripresa degli orari di lavoro c'è anche una certa ripresa dell'occupazione. Di per sé non sarebbe molto giustificata dall'andamento dell'economia che sta crescendo ma poco, quindi un forte aumento dell'occupazione non è nell'ordine delle cose, ma ripeto, un mercato del lavoro più dinamico, dove le imprese trovano un po' di più e soprattutto contratti stabili, può favorire in qualche misura la crescita, perché dà fiducia alle imprese e dà reddito alle famiglie. Se questo torna nel circuito dei consumi, questo può favorire la crescita. Però bisogna che succeda questo, perché se poi ci ritroviamo con degli zero virgola, è chiaro che questo aumento dell'occupazione si sarà ferma. Solo effimero. Professore, poi passo a Quadricuzio, però potrebbe anche essere che dopo, dunque, il Jobs Act è partito a inizio marzo, ma la decontribuzione era già di gennaio, la decontribuzione per i primi 3 anni per chi assume a tempo indeterminato. Potrebbe essere che l'effetto, diciamo, è stato a scoppio ritardato? Perché noi sapevamo che, o almeno ci veniva detto che molte imprese, quelle che volevano assumere, aspettavano chiaramente il 2015, sapendo che sarebbe arrivata sia la decontribuzione e poi anche il Jobs Act. Può essere che questo effetto sia stato a scoppio ritardato? Perché in effetti aprile-maggio nulla di tutto questo abbiamo visto come dati. Sì, beh, però teniamo in conto anche, come dice la stessa ISTA, non lo dico io, che i dati mensili, essendo mensili e basandosi su una rilevazione solo parziale, sono un po' ballerini, lo dice la stessa ISTA, cioè su 22 milioni di occupati, 20 mila in più, 20 mila in meno, certo, ci stanno anche per errori di carattere tecnico, quindi i dati da un mese all'altro sono quelli che sono. Però se vediamo da gennaio, da gennaio c'è una tendenza leggermente positiva, cioè il dato soprattutto la stasi dell'attività produttiva, ovviamente dell'attività produttiva, l'aumento è anche di una certa consistenza. Ripeto, per essere confermato bisogna che si instauri questo circolo virtuoso fra un mercato del lavoro dinamico, ma anche più attività produttiva, più produzione, più consumi, più investimenti. Certamente non basta la spinta interna, però si è sempre detto che la spinta interna può rappresentare un elemento particolarmente utile. Allora, intanto il dato a cui facevo riferimento, se uno prende l'anno prima, sono 235.000 gli occupati in più, sono 44.000 gli occupati in più rispetto al mese di giugno. guardando dentro il dato, attenzione, l'incremento dovuto principalmente agli over 50 può essere, può anche non essere dovuto semplicemente al nuove assunzioni, ma un incremento della quota sul numero complessivo degli occupati. Sono invece scesi i lavoratori tra i 15 e i 34 anni, meno 2,2, e quelli tra i 35 e i 49 anni, meno 1,1. In aumento i giovanissimi e poi i contratti a tempo determinato sono aumentati un po' più di quelli a tempo indeterminato. Professor Quadricurzio, però collegando questo dato anche a quello di ieri sui consumi, che sono saliti nel secondo trimestre dello 0,4%, più 0,6 rispetto a quello prima, non, anche qui un dato positivo come non si vedeva da anni, possiamo dire che qualcosa si sia messo in moto anche in maniera molto lenta, molto inerziale, o è troppo presto? Credo che qualcosa si sia messo in moto e terrei come sfondo di questa messa in moto quello che è successo dal 2008 al 2014, e cioè 9 punti di PIL persi, un calo degli investimenti del 30%. Il 2013 avevamo chiuso con un meno 1,7, il 2014 con un meno 0,4. Se il 2015 sarà confermato andremo a un più 0,7, quindi il cambio di tendenza è evidente. Potremmo dire ma non basta perché la Germania crescerà all'1,6, ma come lei ha ben sottolineato in una parte precedente della trasmissione, a quanto pare la Germania è il paese che in questa crisi sta fruendo dei maggiori vantaggi. Probabilmente per io, ho detto, io sono stato più cattivo di lei, ho detto dalla gestione tedesca di questa crisi, sì, appunto, l'unico no, paese che se ne avvantaggia è la Germania. Avevo sentito bene, ma ho riferito in un modo un po' più elegante. Più ma elegante. Io non sono così elegante. Dunque io penso che l'inversione di tendenza ci sia, penso che uno 0,3 sul secondo trimestre rispetto al primo ci allinea all'eurozona. E questo è importante comunque. La Francia sul secondo rispetto al primo fa uno 0 tondo e voglio poi vedere come farà la Francia ad avere un 1% a fine anno, cosa che non credo si verificherà. Il nostro 0,6-0,7 è dignitoso e potremmo dire la distanza rispetto ai paesi dell'Europa che tracciano il benchmark, tipo la Germania, si è obiettivamente di molto ridotta. Allora resti con noi professor Quadricurzio, poi so che il professor Dall'Aringa ci deve lasciare invece per lavori parlamentari, però fa bene notare una cosa che non avevamo messo in evidenza, cioè che questo dato tra l'altro avvicina, rende più simile l'Italia all'andamento degli altri paesi. Negli anni scorsi avevamo visto che mentre la Germania cresceva bene, la Francia comunque teneva sulla crescita, la Spagna si era ripresa, noi continuavamo a avere il segno meno. Almeno possiamo dire che in questo caso siamo in linea con il resto dell'Europa e il fanalino di coda questa volta è la Francia, non è l'Italia. È importante perché poi tu non è che puoi essere così diverso dal contesto che ti è attorno. Dopo le informazioni sul traffico, però, professor Quadricurzio, le chiedo quanta di questa... Allora, ci sono due timori, uno che sia il rimbalzo del gatto morto, cioè tu a forza di calare fai un famoso, ridono sempre in regia quando lo dico, è un'espressione inglese, se tu lanci un gatto da un grattacielo quando a terra diciamo rimbalza ma non perché sia vivo, quindi un rimbalzo dovuto a un eccesso di compressioni di tutto l'andamento del ciclo economico, per cui un po' di più lo fai e poi lì ti fermi. L'altro timore è che sia solo una crescita eterodiretta, cioè che le componenti che determinano questo aumento del PIL siano solo componenti che si chiamano euro, petrolio e Mario Draghi. Dopo il traffico la risposta. Focus Economia. Adesso non vorrei fare un programma di statistica, ma non è esattamente come scrive un ascoltatore, lo 0,3 non si somma se per due trimestri fai lo 0,3, la tendenza è sempre dello 0,3 per l'anno, no, perché poi il confronto lo fai con l'anno prima e per quello che noi guardiamo il tendenziale, cioè quanto facevi nello stesso periodo di un anno prima, ed ecco perché si dice la crescita già acquisita è dello 0,6 rispetto a un anno prima, e cioè se anche facessero 0 il terzo trimestre, il quarto trimestre, comunque chiuderemo l'anno con un più 0,6 rispetto al 2014, non è esattamente come dice lei. Professor Quadro Curzio, le chiedevo insomma i due rischi, rimbalzo del gatto morto oppure crescita solo per fenomeni e per motivi esterni. Dunque, credo che non sia il rimbalzo, perché se consideriamo sempre il confronto con la Francia sta marciando in questo secondo trimestre a crescita zero, eppure è un paese che ha fatto più o meno quello che ha voluto sul rapporto deficit-PIL, che viaggia ancora tranquillamente più vicino al 4% che al 3%, quindi noi siamo nelle condizioni esogene come quelle francesi, ma stiamo facendo nettamente meglio della Francia. In secondo luogo, la Francia continua a fruire di tassi di interesse sui titoli di Stato molto più bassi dei nostri, circa la metà sui decennali, e anche questo è un fatto che dovrebbe avvantaggiarla. Quindi questi due elementi di comparazione mi dicono che l'Italia si sta muovendo per eventi esogeni, ma anche per capacità endogena limitata, ma certamente da non trascurare. Se poi andiamo anche a vedere la composizione di questa ripresa, o che qualcuno potrà definire mini ripresa, e vediamo che la domanda interna sta riprendendo. Purtroppo abbiamo sempre quel problema serio delle costruzioni, e sappiamo quanto assorbe in termini di occupazione e quindi anche di crescita dei consumi il settore delle costruzioni, ma per il resto abbiamo una certa ripresa del commercio, quindi vediamo un po' anche come sarà andata l'estate, che molti dicono è stata un'estate positiva per il nostro turismo. Che non sì, è abbiamo visto anche i dati degli albergatori, ma gli albergatori come mondo del commercio non canta mai vittoria, anzi appunto, se può si piange un po' addosso, per cui è sempre sentire, molto cauto. Sentire dire che è andata bene la stagione anche grazie ai turisti italiani... Non mi scrive un ascoltatore, impiccatevi con l'elastico. Io credo che in un certo senso bisogna avere, non dico una esagerata fiducia sulla ripresa, però cogliere soprattutto il confronto che ho visto anche lei ha colto con enfasi giusta tra Italia e Francia. La Francia soffia molto. Ma poi la Francia ha fatto zero riforme, non zero titoli, ma zero riforme. Ha tentato l'asse con la Germania, Olanda, non ne ha azzeccata una a mio avviso. Comunque, quando invece forse era meglio proporre un asse con l'Italia per ammorbidire alcuni criteri irragionevoli, irragionalistici del patto di stabilità. Ha delle componenti sociali che, voglio dire, auguri quando faranno le riforme, perché in confronto certi blocchi sociali da noi sono all'acqua di rose, che non penso che la prenderanno proprio in maniera morbida, e continua a chiedere all'Europa di essere sopra il 3% del deficit. Faccio notare che continua a essere ampiamente sopra, l'Italia è seppur di poco sotto, è vero che non hanno il debito italiano, ma diciamo sull'andamento congiunturale sono messi peggio di noi perché continuano a imbarcare deficit. Due notizie che rovineranno, anzi una che ne contiene due, che rovineranno la giornata al Presidente del Consiglio, così chi non ama Renzi è contento. Perché? Perché stanno arrivando dall'Unione Europea nubi tempestose sulla manovra del governo. Allora, Bruxelles, secondo fonti, le agenzie l'hanno appena battute, ha detto che da un lato la proposta di ridurre le tasse sulla casa, IMU e TASI, è contraria alle raccomandazioni europee. Lo fanno notare fonti europee, le agenzie di adesso, sottolineando che abbiamo letto i recenti annunci sulle tasse in Italia, non facciamo commenti perché non abbiamo ancora i dettagli del piano, facciamo notare che il Consiglio europeo ha raccomandato che l'Italia sposti proprio sugli immobili e sui consumi il carico fiscale che attualmente grava sul lavoro e capitali. Tradotto, l'Europa si è raccomandata che le tasse si spostino dall'IRPEF e dall'IRAP all'IVA e all'IMU TASI, per cui la manovra annunciata da Renzi andrebbe in direzione esattamente contraria. E doccia fredda, se non freddina, anche sulla flessibilità che Renzi spera di ottenere, quasi un punto di PIL, quasi 15 miliardi sul deficit. La flessibilità, dicono sempre fonti europee, sotto forma di riduzione da 0,5 allo 0,1 è già stata concessa all'Italia la primavera scorsa, e per cui è essenziale che non si perda lo slancio, ma già ve l'abbiamo data. Professor Quadio Curzio, in un minuto, vabbè, queste sono le indicazioni che arrivano da Bruxelles, magari ci aiuterà indirettamente la Francia, perché se il vero problema sarà lei, noi finiamo un po' in cavalleria. Ma guardi, io credo che queste dichiarazioni nel contesto delle istituzioni europee siano davvero improvvide, perché a metà del mese di settembre ci sarà l'aggiornamento del documento di economia e finanza, e non è oggi, ma è a metà di settembre. Entro il 20 di ottobre ci sarà il draft budgetary program, che dovrà essere esaminato, quindi io non riesco a capire perché incomincino a sparare cartucce più o meno minacciose quando ancora si deve delineare una traccia di manovra correttiva o di legge di stabilità, quindi io ritengo che siano veramente eccessive queste. In altre considerazioni, credo poi che l'Italia si presenterà come si presenterà, ma dovrà anche chiedere un filino di notizie circa il piano Juncker. Piano Juncker, degli investimenti, e la Francia. Secondo me finirà come col Prosecco e lo Champagne, per cui mettiamola così, che supereremo la Francia. E i giochi si faranno... Focus Economia. Sei minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Una precisazione, stiano zitti, detto a microfono aperto, non era rivolto all'economista Claudio Curzio, era rivolto a Bruxelles, lo dico perché alcuni ascoltatori si sono chiesti a chi fosse rivolto. Allora, continua la petizione per far fare a me quello che hanno fatto fare al povero giornalista cinese. Ma guarda che se fosse così semplice, vale, facciamo una missione di esserti noi la colpa della crisi, dell'inefficienza della pubblica amministrazione, del tasso di evasione di questo paese, dell'insipienza e incapacità della nostra classe politica e magari pure degli scandali di Roma Capitale, e questo paese improvvisamente, dopo la confessione pubblica e la gogna del giornalista, migliora. È stato il sogno di vari presidenti del Consiglio. Se delle cose non parli, non esistono. Deboli mercati oggi, -2,24% Milano, -2,40% Parigi, -2,40% anche Francoforte, Londra -3%, l'America continua a perdere il 2,16%, euro a quota 1,12. Peggior titolo UX, -4,40%, poi Monte dei Paschi -4,30%, Azimut -3,60%, Moncler -3,5%, Unicredit -3,4%, come CNH e la Pop Milano. Male anche da questo punto di vista Fiat Chrysler -3,20%, Intesa -3%, come Buzzi Unicem e il Banco Popolare. Si salvano la Popolare Emilia Romagna +0,13%, Pirelli invariata, World Duty Free -0,1%, Ansaldo STS -0,26%. Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Oggi il dato cinese sul PMI ha penalizzato soprattutto sull'andamento degli acquisti in Cina, ha penalizzato soprattutto lusso, no? Moncler -3,5% e Luxottica -2,70%, vai. Sì, si tratta ovviamente delle società che sono più esposte in Cina, almeno delle società quotate a Piazza Affari. Ferragamo così ha lasciato sul parterre oltre il 2%, male anche Moncler, come ha detto tu, -3,5%, si è invece un po' salvata Tod's, che ha perso solo l'1,1%, male Luxottica -2,7%. E oggi però, oltre ai titoli del lusso, tutte le banche vanno male, poi parleremo di chi va bene, perché insomma Monte dei Paschi -4,30%, Unicredit -3,40%, Pop Milano -3,40%, insomma, non abbiamo visto dei motivi incredibile o tali da giustificare un calo del genere? No, le banche, diciamo, pagano innanzitutto il dazio per il fatto che c'è una grande instabilità sui mercati finanziari che è iniziata lo scorso luglio, e anche settembre non sembra iniziato nella migliore delle condizioni, non c'è evidentemente una gran voglia di reagire da parte delle borse, quindi le prime a farne le spese sono proprio le azioni delle banche. Poi su alcuni casi particolari ci sono anche delle motivazioni in più. MPS ha accusato ad esempio la peggior performance del listino, anche perché proprio oggi è emerso dalle comunicazioni Consob che lo scorso agosto UBS ha ridotto la propria quota nella banca senese, portandosi dal 2,25% all'1,67%. Poi ci sono ovviamente anche altri istituti che sono tenuti sotto controllo. Va detto ad esempio che il Banco Popolare comunque ha lasciato sul parterre il 2,8%, nonostante continuino le voci su possibili operazioni straordinarie. Oggi si parlava in particolare di una operazione con Veneto Banca, che potrebbe peraltro succedere a un matrimonio tra Banco Popolare e UBI. È tutto da vedere, sicuramente nel settore soprattutto delle popolari se ne dovrebbero vedere delle belle. Sì, ieri lo paragonavamo un po' a quel film Sette spose per sette fratelli, in cui ognuno balla di fronte all'altro, poi sceglie la più bella, chi prima arriva si sceglie la più bella. E o il più bello, insomma, non mi ricordo esattamente la dinamica del film, ma questo capiterà nel mondo delle popolari. Ci chiedono molto di Eni, che ieri si era distinta per l'annuncio, l'abbiamo ampiamente commentato, del super giant, del giacimento, tra poco parliamo di gas e petrolio, tra un minuto, con Leonardo Maugeri, ma oggi Eni un po' più al palo, ma anche Enel perde il 2,50%, Eni meno 1,70%. Fiat invece non è così mossa dalle dichiarazioni di Marchionne su General Motors, anzi il 3,20%, però oggi sono appena usciti in questi momenti i dati sulle immatricolazioni auto ad agosto, più 10,6%. Bene anche il mese di agosto, in 8 mesi più 15% le immatricolazioni auto in questo paese. Questo è un dato obiettivamente incontrovertibile che segnala un recupero di fiducia, visto che l'automobile è il bene, uno dei beni durevoli per antonomasia, e Fiat fa meglio del mercato per l'ottavo mese consecutivo, più 12,7%. Eni. Sì, per quanto riguarda Eni, questa mattina in verità i titoli avevano provato a festeggiare ancora la notizia della scoperta del maxi giacimento, erano tra le poche azioni infatti che erano in terreno positivo, poi nel primo pomeriggio in verità hanno invertito rotta e sono state succubi delle prese di beneficio. Comunque Eni ha fatto meglio del listino, ha lasciato sul parterre l'1,7%, si scommette, come ha già detto l'amministratore delegato, anche su una cedola più generosa, più succulenta. Per quanto riguarda FCA invece ha perso il 3,2%, c'era molta attesa per i dati sulle immatricolazioni, peraltro nel corso della giornata erano già stati dati i dati sulle immatricolazioni francesi andate bene, quelli sulle immatricolazioni americane salite del 2% con oltre 200.000 auto vendute sempre nel mese di agosto, però appunto un eventuale rallentamento dell'economia mondiale ovviamente va a pesare su tutti i titoli industriali. Ma semmai per quanto riguarda Eni va segnalato che ovviamente pesa su tutto il comparto petrolifero, al di là poi della scoperta che è stata annunciata da Eni, l'andamento del petrolio in tre giorni aveva recuperato il 25%, oggi invece fa oltre il meno 6%, è tornato in area a $45-46 al barile. Migliori e peggiori, Enertronica più 7,5%, Stefanella più 5%, Industria e Innovazione più 4,60%, al fronte opposto, TAS meno 8,20%, PRL meno 5,40%, BS meno 5,41%. Grazie a Eleonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore. annunciato. Restiamo sul tema del petrolio e del gas, per due motivi. Perché ieri abbiamo commentato la notizia dell'Eni, della scoperta di un super giant, un giacimento al largo dell'Egitto, ma abbiamo anche commentato un petrolio ballerino, per essere quasi eufemistici. Perdeva il 3%, guadagnava il 5%, oggi ha perso un altro 5% a $46.5 al barile. L'Iran ha detto che potrebbe arrivare nel giro di 5 mesi a 1 milione di barili al giorno di esportazione in più, attualmente ne produce 2,8 milioni, che comunque è uno dei livelli più alti da 3 anni a questa parte. Il ministro dell'Iran ha detto: attenzione, per molti paesi membri dell'OPEC il prezzo giusto sarebbe $70-80. E allora abbiamo l'occasione di riavere ospite uno dei massimi esperti di petrolio, non solo in Italia, editorialista del Sole 24 Ore, per tantissimi anni in posizione apicale all'Eni, Leonardo Maugeri. Buonasera. Buonasera, buonasera. E bentornato, visto che lei insegna ad Harvard, però ogni tanto torna anche in visita nel nostro paese. Una prima previsione su quello, o meglio analisi, su quello che sta capitando sul prezzo del petrolio, perché insomma abbiamo visto un petrolio che si muove come se fosse quasi un titolo azionario, cioè con dei sali scendi pazzeschi nelle ultime settimane. Sì, ma continuerà a essere così, ma la tendenza di fondo rimarrà ribassista, ahimè, io temo, questo lo dico, temo per i produttori per i prossimi 2 anni. Guarda, io ho appena finito, da poco ho finito un tour proprio di Iran, Arabia Saudita, e anche loro sono in grandissima difficoltà. Poi le politiche che seguono, per carità, prescindono da queste difficoltà. In realtà tutti sperano di vedere una luce in fondo al tunnel. Ma quello che in realtà rischiano di vedere sono solo quelle di un treno che viaggia contro di loro. Questo io continuo a ripeterlo, lei lo sa, perché poi sono già venuto a Radio 24 Ore, ma è dal 2012 che io avevo avvertito sul mio primo lavoro a Harvard che ci sarebbe stato un probabile collasso dei prezzi del petrolio prima del 2015, perché semplicemente c'era troppa offerta che si stava creando nel mercato, grazie, alimentata dai prezzi così alti del petrolio, che spingevano tutti a investire in modo anche irrazionale. Però i risultati di quegli investimenti si iniziano a vedere adesso e si continueranno a vedere nei prossimi anni in termini di nuova capacità produttiva che fatalmente arriverà sul mercato e nessuno potrà bloccare. Da qui ecco l'ondata ribassista, interrotta di tanto in tanto, come è successo in questi giorni, ma era già successo qualche mese fa, da rialzi speculativi. Ma di rialzi speculativi si tratta, strutturalmente rimaniamo in un'onda ribassista. Allora, fermo restando che non ho nessun tipo di, non riesco a essere simpatico verso i grandi produttori di petrolio, perché hanno avuto anni col petrolio a $130, $140, $100, per carità. Il tema però è vero, perché riguarda la nostra, intesa come europea, crescita economica. Se l'euro si mantiene debole sul dollaro e il petrolio si mantiene debole, è la migliore delle situazioni possibili. Altrimenti, con un euro debole e un petrolio in aumento che si paga in dollari, rischi, anzi pagheresti di più anche in termini valutari il petrolio, con la conseguenza di importare inflazione, cioè di avere un aumento dei prezzi non dovuto a un'economia che cresce, va bene, l'inflazione è buona, ma dovuto solo al fatto che ti costano di più le materie prime e tu magari sei ancora un po' come economia stagnante o in leggerissima ripresa. Maugeri, dopo le informazioni sul traffico, vorrei capire che ne è stato dei vari produttori di shale oil americano. Allora, due sono le variabili in questo momento: i paesi dell'OPEC che continuano, guidati dall'Arabia Saudita, il braccio di ferro con la produzione nazionale americana, quella fatta con le sabbie bituminose del nord dell'America, tenendo basso il prezzo del petrolio, sperano di buttare fuori mercato tutti quelli che estraggono petrolio in quel modo negli Stati Uniti, perché i costi di estrazione sono molto alti e quindi dicono, si diceva, sotto i $70 quelli verranno spazzati via. L'altra variabile fondamentale è l'Iran. Dopo il traffico mi dica intanto quale sta pesando di più, e poi se la scommessa saudita di dire perdiamo soldi adesso, facciamo perdere soldi a tutti i paesi produttori, ma almeno poi butteremo fuori mercato questa e non renderemo l'America più autosufficiente, la sta vincendo o no l'Arabia Saudita. Focus Economia. E 20 minuti. Leonardo Maugeri, pesa più la variabile Iran o il braccio di ferro OPEC, cioè Arabia Saudita, con l'autosufficienza che ha raggiunto gli Stati Uniti, che hanno raggiunto gli Stati Uniti? No, pesa di più il secondo fattore, perché i sauditi avevano sottovalutato completamente la capacità di resistenza o resilienza, come si dice oggi con un termine piuttosto brutto preso dall'americano, degli Stati Uniti. In realtà quello che avevano sottovalutato è la capacità degli Stati Uniti di abbassare drasticamente i costi. Io l'avevo già sottolineato anche per le colonne del Sole 24 e ore. E anche da questi microfoni, è vero? Le ho detto, esatto. Attenzione che riusciranno a produrre il petrolio delle sabbie bituminose anche a costi più bassi dei $70. E quindi, esatto, la scommessa saudita di sbatterli fuori dal mercato. Ma è vero che in realtà l'hanno presa più in tasca, mi scusi il linguaggio poco da Harvard, i grandi produttori di petrolio, e invece i piccoli hanno saputo adattarsi di più, un po' come i nostri piccoli imprenditori quando sono più flessibili? Fino a un certo punto. Diciamo che quello che hanno i piccoli produttori di petrolio, di Shell in particolare, è che possono spingere e riattivare la produzione in modo estremamente veloce, cosa che non può succedere nel petrolio tradizionale. Questa è una rivoluzione copernicana che ancora pochi capiscono, e ci vorrebbe molto per spiegare i motivi tecnici per cui questo avviene. Quindi diciamo che la flessibilità che dà lo shale oil è estremamente maggiore del petrolio tradizionale. In questo senso quelli che avevano le spalle più grosse tra i produttori di shale stanno resistendo benissimo. Quelli che avevano fatto debiti enormi vanno a gambe all'aria, ma questo non compromette la produzione americana, perché qualcuno subentra e continua a produrre. Quindi in realtà se noi guardiamo quello che è successo dal luglio del 2014, quando è iniziata la discesa dei prezzi del petrolio, che poi è diventata rovinosa, a oggi, è stupefacente vedere che gli Stati Uniti oggi producono quasi 1 milione di barili al giorno in più, l'Iran 1.300.000 barili in più, l'Iran 300.000, già 300.000 barili al giorno in più, il Brasile 200.000 in più, perfino il Canada, che è uno dei paesi con i costi marginali più alti al mondo, produce quasi 300.000 barili al giorno in più, e ultima delle ultime, il Mare del Nord, che sfida ogni legge di gravità perché era un'area in declino produttivo, poi in aperta crisi, e nonostante questo dal luglio del 2014 a oggi produce 200.000 barili al giorno. Mi scusi Maugeri, però da questo ritratto che lei fa, la domanda che uno si può porre è: ma c'è qualcuno che studia i numeri all'OPEC e in Arabia Saudita? Perché come hanno fatto i sauditi, trascinando con sé tutti i paesi produttori del petrolio, a non vedere questi numeri, cioè il fatto che la maggior parte delle società americane che producono petrolio delle sabbie bituminose, a meno che non abbiano immaginato un petrolio a $100 indebitandosi, stanno reggendo il colpo, che poi l'Iraq sta aumentando la produzione, che l'arrivo dell'Iran avrebbe aumentato ulteriormente la produzione. Cioè, c'è qualcuno che studia l'OPEC? Guardi, è successo lo stesso negli anni 80 ed è successo sempre, perché ci sono stati i grandi collassi del prezzo del petrolio anche nel passato, perché i numeri vengono studiati male. Si usano modelli econometrici a partire dall'Agenzia Internazionale per l'Energia, che è sempre stata bravissima a fare previsioni sul passato, ma mai a capire qualcosa dell'immediato futuro, perché è sbagliato in questo settore fare previsioni sui modelli econometrici, come fanno tutti, perché è un settore in cui tu inizi a investire quando i prezzi sono alti, certo. E hai la prima produzione dopo 10 anni, e dopo 10 anni la situazione di mercato può essere completamente cambiata. Sai che mi ricorda cambiata? Il settore del vino? So che può sembrare una bestemmia, sì. Però insomma, anche quando uno fa degli impianti e mette le rabatelle, deve immaginarsi il mercato fra 10 anni. Non, esatto, non adesso. Che è una cosa difficilissima, però è possibile intravederlo. Io riuscii a capire quello che poteva succedere nel 2015, riuscire a capirlo nel 2012, perché è un database che mi consente di capire giacimento per giacimento nel mondo che cosa ma sta succedendo. Ma non glielo può vendere all'OPEC il database, Mogherini? No, facciamo prima. Me l'hanno chiesto in tanti, però me lo tengo per me. Ma detto questo, questo è il grande problema che hanno tutti, e le assicuro che da tutta la stampa, a tutti i media, a tutti, alla prossima previsione che fa l'Agenzia Internazionale dell'Energia, che sarà sicuramente sbagliata, però tutti gli daranno grande risalto. E allora è difficile, resta la fonte principale dei dati per tutti l'Agenzia Internazionale dell'Energia, e quindi resta la fonte principale di distorsione per tutti, compreso per i sauditi. I sauditi avevano sottovalutato, ma l'avevano fatto negli anni Ottanta, quando ci fu il collasso dei prezzi petroliferi, e l'hanno fatto in altri momenti. Quindi il problema dei dati del mondo del petrolifero ancora oggi è risolto in modo come vengono. Ma è importante quanto lei dice, perché poi noi che i dati li leggiamo, sembriamo in qualche modo artefici, ma ci limitiamo a leggerli. Ed è importante anche perché poi uno pensa sempre che a Vienna e la OPEC sarà gente che conosce ogni goccia di petrolio di tutte le piattaforme del Mare del Nord, e poi si scopre che usano modelli econometrici sbagliati, un po' come Goldman Sachs quando previse nel 2008, a luglio del 2008, il petrolio a $200 al barile. Poi ci fu Lehman Brothers, un dettaglio. Ma Mogherini, vogliamo però un commento, visto che lei è stato direttore strategie e sviluppo dell'ENI fino al 2010, e quindi un ruolo chiave, cioè chi deve decidere che cosa e dove puntare, un commento insomma su quanto è riuscito a fare l'ENI, a annunciare l'ENI ieri, questo super giant del gas, mai scoperto un giacimento così importante nel Mediterraneo. No, è una grandissima scoperta, ed è a maggior ragione una grandissima scoperta perché è vicina a mercati di consumo. Cioè, pochi si rendono conto che scoprire il gas in the middle of nowhere, cioè in mezzo al nulla, può essere una iattura totale per un petroliere. E io continuo a ripetere che tutto il gas che è stato scoperto in Australia ha avuto costi di sviluppo e poi di trasporto e rilascio molto più alti dei prezzi attuali del gas. Quindi, mi scusi, ma questo però vale anche per quando c'era lei con Kazakhstan e Karajaganak, il Kazakistan, no? No, perché in quel caso a parte si trattava di petrolio, del caso di Kazakhstan. Poi il problema di Kashagan è di altro genere, il problema è che le riserve di petrolio a Kashagan ci sono, e come. Il problema è nato dal modo in cui è stato sviluppato il giacimento, i ritardi continui, cioè, non è un problema legato alle riserve fisiche, alla disponibilità e alla... No, comunque non volevo chiudere sull'ENI di ieri, no, perché l'ho interrotta io, mi scuso, prego. No, sull'Egitto invece... La cosa importantissima è che è un giacimento enorme ed è a ridosso di mercati finali di consumo, a partire da quello egiziano che ha molto bisogno di gas e poi è vicino all'Europa. Ecco, quindi è vero, come ha detto De Scalzi, che cambia un po' lo scenario energetico europeo, perché fino all'altro ieri l'Europa riposava su Russia e su Algeria e su altri. Certo, bisognerà considerare che una buona parte di quel gas lo vorrà l'Egitto. Vabbè, già. Ma si tratta sempre di avere un mercato lì vicino. Prossimo, no, ma lei ha fatto bene a far notare che la vicinanza ai mercati di sbocco. Mogherini, nel ringraziare Leonardo Mogherini, vi dico anche che, a maggior ragione, corroborando quanto lei stava dicendo, adesso il petrolio sta perdendo l'8%. Una scoppola mica da ridere sul mercato, a quanto mi dicevano in regia, $45.50 al barile. Grazie anche a Leonardo Mogherini, editorialista del Sole 24 Ore, nonché docente all'Università di Harvard. Da Sebastiano Barigioni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.